Ci siamo. Allora, 21 e 31 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa. In studio il sottoscritto, il fantasma Gigio, poi stanno arrivando pure i ciclisti. Il trillo trilla. Aspettavamo Martis, ma evidentemente non c'ha più il giaguaro di una volta. Comunque si farà viva in qualche misura, in qualche modo. Quindi abbiamo sentito la telefonata, abbiamo fatto col forte Prenestino, dove stasera c'è la cena di Scarceranda. E invitiamo a tutti e a tutti ad andare al forte. Dove ci stanno un sacco di redattrici e redattori della radio che se la spanzano. Più i compagni e le compagne del forte, i vari avventori del centro sociale. Mentre a noi qui ci hanno lasciati a trasmettere, a fare i botti in redazione. Tante cose questa notte e questa sera. Una già l'abbiamo affrontata, fra poco ci collegheremo con i compagni che stanno organizzando Festival della Musica Indipendente 25, 26 e 27 maggio all'Oa Acrobax. Un sacco di nomi importanti. E poi iniziamo con il ciclismo urbano e andiamo avanti fino a che ci arregge. Però diamo le coordinate della radio, dell'emittente che state ascoltando. Ah, e poi aspetta, fermi. Nel programma a mezzanotte c'è il brindisi, ma ci siamo dimenticati lo spumante a casa, ai noi. E quindi brinderemo a birra. D'altronde quello è. Allora, vi dicevo un po' di coordinate di Radio Onda Rossa. 87,9 la modulazione di frequenza della banda romana e laziale. 0649 1750, il recapito telefonico, che comunque lo conoscete bene perché trilla a manetta. 342 357 74357, datevi da fa', perché qui mi sembra che l'ultimo SMS arrivato risale a ieri sera. E dai, fatevi entrare in zucca quindi questo numero di telefono, di cellulare, 342 357 4357, perché così ci mandate gli SMS, che è un gradino sopra il trillino in quanto ha effetto comunicativo. Thank you. Costasi. SMS costa. Ma costa pure mandare avanti una radio che non fa pubblicità, che non c'ha padroni e né padrini politici. Perché questa è la radio di chi se la sente, la vostra radio. È la radio di chi si sbatte per trasmettere, ma per fare anche in maniera tale che la radio sia al centro della comunicazione fra i compagni e le compagne, fra chi ne condivide il progetto editoriale. 6180 4001, numero di conto corrente postale da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma, San Lollo, per sottoscrivere. Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. A 20 chilometri al giorno, polvere sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, mazzo di fiore di prato, ma tutto andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, breva l'andata, lungo ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che te. Pronto, ci siamo, siamo in diretta. Sì. Allora, buonasera. Buonasera, un'altra voce di quelle che Radio Onda Rossa conosce bene. Per raccontarci, bene, direi. Per raccontarci questo fine settimana che sarà densissimo di appuntamenti, centrale riteniamo sia l'appuntamento serale per lo più delle, appunto, del 25, 26 e 27 maggio, i Music Festival. Ah, esatto. In quel dello scenario, che bella parola, come riempie la bocca, lo scenario mi è proprio piaciuto, del Loa Agrobax ex Cinodromo. Allora, raccontaci un po' da dove nasce questa roba, perché c'è la necessità di un festival della musica indipendente a Roma. Allora, diciamo che è chiaro che l'idea di questo festival arriva da una serie di considerazioni, diciamo, di tanti anni, no, di iniziative anche nei centri sociali. Soprattutto, diciamo, negli ultimi 10 anni un po' tutti noi che poi ci siamo aggregati, un gruppo eterogeneo che non fa parte solamente di Agrobax. Questo intanto ci tengo a dirlo, cioè ci sono anche elementi che si sono aggregati attorno a questo progetto, e ognuno di noi negli anni ha sperimentato una serie di organizzazioni, di iniziative, di scenari appunto culturali, antagonisti eccetera eccetera, e una cosa che ci mancava era la musica suonata, e questo è un po' anche il centro, diciamo, di questo festival. Cioè noi abbiamo voluto costruire un percorso di musica suonata, cioè provare a riportare nella forma del festival comunque la musica dal vivo all'interno dei posti, cosa che per fortuna negli ultimi anni un po' si sta riprendendo, no? Ma che spesso è mancata negli spazi occupati, diciamo negli ultimi 10-12 anni. Sì. E quindi niente, ci siamo messi a tavolino, abbiamo detto ok, che facciamo? E l'idea fondamentalmente è venuta appunto attorno alla questione dell'indipendenza, perché chiaramente prima per affinità ci siamo detti ok, lavoriamo solo con gruppi in autoproduzione, lavoriamo solo con gruppi che fanno musica con etichette indipendenti e comunque che ci sono vicini. Dopodiché in realtà abbiamo un po' rigirato la questione, abbiamo detto ok, perché invece non proviamo a ragionare diversamente, costruiamo una proposta culturale, musicale e politica che ci piace e la costruiamo però in modo indipendente. Cioè cosa intendiamo noi per indipendente? Per indipendente fondamentalmente ci siamo un po' posti l'obiettivo di ricostruire dei rapporti a livello di organizzazione, cioè quindi con gli artisti, tra di noi, con il management, con chi comunque organizza anche gli eventi dei vari artisti. Abbiamo chiesto a tutti quelli che stanno partecipando, a cominciare dai romani, quindi ai gruppi romani, fino ai gruppi internazionali, di porsi in un'ottica di co-organizzazione con noi rispetto a questo festival. Su una piattaforma, sì, partecipativa praticamente. Chi suona partecipa in qualche misura all'organizzazione del festival. Esattamente. Sì. Guarda che è stata anche un esperimento abbastanza interessante, nel senso che poi le dinamiche, ovviamente le classiche dinamiche ci sono state, quindi chiaramente c'è l'artista che pretende determinate cose e si discuteva, si è discusso fino a poche ore fa di come trovare delle soluzioni insieme su questa cosa. Insomma si sono mischiate le carte. Abbiamo un po' mischiato le carte, esatto, sì. È stato interessante anche il modo con cui è vero che ogni artista poi porta un po' acqua al suo mulino, per cui pubblicità la fa sempre, però anche sulla questione della pubblicità, quindi della capacità di comunicazione dell'evento, comunque abbiamo lavorato insieme. Loro ci hanno chiesto il testo politico, che è quello anche che ha girato e che si trova sul sito, in cui appunto raccontiamo un po' in 10 righe per sintetizzare un percorso che in realtà era stato racchiuso in 3 pagine. Questo, diciamo, abbiamo dovuto sintetizzare parecchio, e ce l'hanno chiesto alcuni estratti che l'abbiamo anche tradotti in inglese per poterlo comunque aggiungere magari alle locandine, alle cose. E questo pure è stato, diciamo, interessante, perché loro si sono posti anche un problema di che tipo di organizzazione, ma anche che tipo di contenuto politico c'era rispetto a questo festival, e tutti quanti hanno capito anche diciamo la sede in cui stanno venendo, che è un centro sociale. Ovviamente molti di loro hanno già suonato anche dentro gli spazi occupati, e niente, questo ha creato secondo me comunque una proposta culturale che insomma si traduce secondo noi in un nuovo festival importante di Roma, che in qualche maniera va a riprendersi una serie di spazi, o almeno ci prova, una serie di spazi che i vari festival grossi a Roma, finanziati, commerciali, comunali, no, normalmente trascurano, insomma, questi aspetti appunto, sì, dell'indipendenza. E sì, siamo anche un po' stufi, diciamo, di questa musica che viene propinata a rotta di collo tutti i giorni, magari per settimane intere, e che non dice niente, propone solo grossi nomi perché c'è il cash, e questa cosa un po' a noi ci ha stufato, cioè, te lo dico proprio un po', cioè io sono veramente non solo a voi, insomma, pure chi conduce comunque da tanti anni in radio. Cioè, c'ha sempre più difficoltà poi in realtà anche a cercare ambiti diversi dove gli artisti possano poi esprimersi in realtà, perché altrimenti appunto non si esprimono, cioè semplicemente la prestazione e lì finisce la storia. Sì, poi magari ti trovi anche a dover tirare giù dei compromessi anche su come, sul tipo di show che fai, su come imposti determinate cose, devi stare attento a quello che dici, e questo lo dico però con attenzione in chiave positiva, nel senso che magari uno ha voglia di raccontare anche ciò che accade nel mondo e non lo può fare perché magari quel festival dice no, beh, certo, attenzione, non si può dire niente. Ok, questo è anche un modo appunto all'artista per invece sentirsi in qualche maniera parte di un progetto e quindi libero anche di dire delle cose che magari ha condiviso anche con noi nel corso della preparazione dell'evento, della preparazione, insomma, questo sarà anche interessante vedere poi come uscirà, diciamo, dal palco proprio. E niente, non lo so. Beh, io direi di vabbè, a parte che c'è la coincidenza, sì, che praticamente ho notato pure io, non ci siamo riusciti a mettere d'accordo su questa cosa, praticamente sono i tre giorni, sì, della critica al massi, i tre giorni, però sì, sono cose appunto, il pomeriggio ci sta, si va in bicicletta e la, esatto, sera e la notte si va a vedere i concerti, insomma un po' questa è la, sì, storia, sì, per quei, esatto, giorni, no, quindi avete poi un fine settimana totalmente occupato, cioè non lo dico agli ascoltatori, cioè, non c'è niente da fare, effettivamente, dovete, sì, faticare parecchio, sì sì sì, tenetevi a digiuno anche, no, perché poi tenetevi a digiuno, mangiate un po' con la cemmona e poi venite a mangiare già il cinodromo, e anche perché vabbè il giorno smaltite, quindi non ci sono problemi, la sera ballate. Ok, senti, insomma, okay, Silvio, sono tre date, in qualche misura c'è pure un tema conduttore che contraddistingue le tre serate, cioè quella di venerdì, di sabato e di domenica? Tu parli dal punto di vista musicale? Dal punto di vista artistico pure, insomma, vabbè, sicuramente allora, la domenica sono gruppi pop, insomma, questo è da, sì, sapere, diciamo, ed è l'ingresso gratuito, diciamolo, insomma, così. Sì, ci sono delle cose importanti, allora, vabbè, la questione del prezzo, ovviamente noi abbiamo trovato un compromesso tra di noi, nel senso che ovviamente anche la discussione è nata anche sulla questione dell'ingresso, della sottoscrizione, e l'ingresso per i primi due giorni, quindi venerdì e sabato, sarà di 10 euro, e appunto poi ci sono 5 gruppi a sera, e sarà fatta con il palco sul campo degli Orreds, anche questo ci teniamo a dirlo, insomma, il campo degli Orreds, quindi esiste un campo degli Orreds, che è la squadra di rugby che si allena al cinodromo, e ci sarà il palco quindi all'esterno, ci saranno tutta una serie di strutture invece all'interno, mentre la domenica, una cosa importante, ci sarà l'inaugurazione del rinnovato playground col campo da basket, di street basket, e l'inaugurazione dello skate park, credo, non so se si riesce a finirlo definitivamente, nel senso ci sono dei percorsi che forse non saranno completi, agibili, ma lo skate park comunque è agibile, è divertente, già i ragazzi stanno venendo con lo skate e stanno cominciando a provare, diciamo, le strutture che ci sono, e lì sì, la domenica è gratuita, è nel parcheggio antistante al cinodromo, per cui è ingresso assolutamente gratuito, e sarà tutta hip hop, e quindi quella è caratterizzare anche un po' in quel modo. Li dico io i gruppi che ce l'ho davanti? Sulla domenica dici? Sì, sulla domenica. Iniziamo al contrario, tanto perché sì, noi non vai, dobbiamo mai fare le cose a logica. Bonnot and M1. M1, sì. Just a Case, ho detto bene? Sì. Rico e Rocco Hunt, il nano e il signor K. E il nano. Vabbè, il nano, insomma. Il nano resident, signor K. Siamo con 12 punti interrogativi perché purtroppo sta poco bene, quindi temo che non verrà. E vabbè, ma a nord fa freddo, insomma. A nord fa freddo, infatti. In Alta Italia. No, sui primi due giorni, diciamo che appunto siamo eterogenei come gruppo, anche organizzativo, per cui il festival è abbastanza eterogeneo. Abbiamo provato a dare delle linee guida, no, all'interno delle due giornate, per cui il venerdì c'è una linea guida che è un po' più rock, un po' più elettronica, un po' più hardcore, diciamo. Li leggo? Quindi leggiamoli anche, sì. Citizen Kane, che conosciamo, sì, bene, ma poi mandiamo pure una traccia, vai, rancore pure, mandiamo una traccia. Low Frequency non li conosco. Low Frequency Club sono molto interessanti, peraltro dal sito delle Music Festival, che è imusicfestival.org, ci sono anche un po' di biografie, nella sezione video ci sta, sì, volendo, la possibilità di andare a cercare dei video direttamente. Agrobox.org è il sito. Poi i Chrome UF, sì, Gruppo inglese. Gruppo inglese. Cromuff. Sì. E poi gli Ascendab Foundation. Sì, Ascendab Foundation che vengono appunto con una formazione un po' particolare rispetto anche a quella che è venuta l'anno scorso. Sì, sì, però insomma lo show sarà sicuramente un bello show, ci hanno promesso fulmine e saette, diciamo. La seconda giornata è un po' più, diciamo così, dal cantautorato alle percussioni, al reggae, al flamenco, quindi c'è questo percorso tutto. Che a noi è piaciuto e ci è sembrato anche coerente, ti dico tutto. Ma però bisogna vedere come finivano queste riunioni, diciamo, qual è il tasso alcolico. No, però effettivamente abbiamo trovato un filo logico sai, non tanto nei nomi della musica, quanto il fatto che ognuno di quei gruppi è contaminato in realtà da un pezzetto degli altri. Oh, ok. Benissimo. Cioè, non si conoscono, non è che se conosco dico, ah, no, io te copio un pochino a te, no, cioè, separatamente, anche perché vengono da parti del mondo diverse, ma separatamente hanno delle influenze ognuno dei vari gruppi, per cui sono riconducibili appunto a questa nostra flip mentale. Diciamo. Possiamo dire gran mischione sabato 26, però con un filo conduttore. Con filo assolutamente conduttore e leggermente storto, ma direi abbastanza lineare, diciamo. Monkey okay. Cheers, The Singers, sì. Mombu, sono tre Mombu. Gruppi italiani, poi invece dalla Francia sì. Dub Inc. e sì. Locos de Brujo dalla Spagna. Dalla Spagna, che dire, esatto. Altro gruppone, insomma, non mancate. Sì, sì, perfetto, guarda, direi che, non so, abbiamo detto tutto. A penso parte, proprio di sì. Venite, venite, e tanti auguri, lo possiamo dire. Allora, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa, a mezzanotte domani. Brindiamo, trillate tanto, mandate sms, insomma, stiamo qua, dai. Esatto, diamo l'appuntamento anche domani sotto la radio. Benissimo, sì, domani sotto certo. La radio, lo stiamo ripetendo. Allora, okay. 25, 26, 27 di maggio, Lo Acrobax, Via della Vasca Navale, ex Cinodromo. Il festival si chiama? Proprio dillo si bene. Chiama Music Festival, ovvero Independent Music Festival. Benissimo, allora ci vediamo tutti all'Acrobat, ci vediamo sotto la radio, ci vediamo in piazza con le bici, ci vediamo oltre okay. Che sentirci. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. A different choice was made. A journey I didn't take. Close my eyes and reawake. I'm killing time by the sun. Snakes slither in the grass. Play my flute as a drummer's drum. Chittagong nets are cast. Row, fishermen row. How many fish you catch? Praying for the crops to grow. Waiting for the eggs to hatch. And as the showdown approaches, my life flashes before my eyes, and as we are eye to eye, spiacenti per l'inconveniente tecnico. vedi. E allora, mentre ci siamo proprio tutti, mentre... Mentre abbiamo ascoltato appunto la corrispondenza e due chiacchiere intorno all'E-Music Festival del 25, 26 e 27 di maggio, ascoltiamo i Citizen Kane che andranno live proprio all'inizio della prima serata. In un vortice di polvere gli altri e poi Giovanni Rancore. Di polvere gli altri vedeva siccità, a me ricordava la donna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vinta a dormire nei campi coltivati. Svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Signor K, Jolly Roger, la conoscete? Allora ci siamo tutti e tutte. Senza leggere un nome di me stesso. Vogliamo cominciare? Dai, il microfono centrale è quello che funziona. Si faccia qualcuno avanti o qualcuna. Se no vi mando di qua, eh. Eh sì. Loro mo parleranno delle biciclette. Allora, ci siamo... Ci siamo, vai. E non ci siamo. Ecco. Aspetta. Ecco. Eccoci qua. Finalmente, dai. Allora, io qua vicina. Voglio una delle voci di questa radio vicina. Ma perché c'è, tra l'altro c'ha facoltà. Stai questa attento, voce. Perché non è che io mi avvicino sempre in pace. Non scherzo. No, poi so che stava per dire pure una delle voci più vecchie, ma qua mi pare che siamo un bel trio, sì, solo sti tre, sì, mi pare che famo te, poi ci batte a tutti, ma fatelo dire, insomma, no, so anche però belle cose da dire, visto che si avvicinano i compleanni della radio. Come avevamo detto un'altra serata, tipo questa, quella con insomma del patate, eccetera, quando abbiamo fatta a marzo, così diceva, no, vabbè, sì, c'è sta gente, tutti vecchi, eccetera, eccetera. Ho fatto, beh, solamente io Corsego de anzianità da radio, mi sa che famo mezza piotta, quindi vabbè, no, ma parliamo di biciclette. Parliamo di biciclette. Ma ne hai facoltà di parlare in bicicletta, perché ti sei convertita? Sì. No, perché esatto, volete sapere com'è andata? Sì. Che io so proprio una che la bicicletta, l'ultima volta avevo tipo 7 anni, 12, ti è. Famo 12 perché stavo in campagna da mia madre, non sapevo proprio che fa, che ti è più pure la bicicletta, quindi proprio buio. Poi una vita piuttosto movimentata, figlio, quindi insomma. Anzi, col figlio all'inizio ho messo pure la bici di mia madre, il seggiolino. È stata una delle. Poi ho accannato subito, appena diventato più di 6-7 kg, via. E quindi niente, ho abbandonato così finché l'anno scorso, esattamente, mi confermi lì, Baffino, eh? Baffino Piero, ci abbiamo qui, sì, in forma, sì, di satirello stasera lì all'angolo che ridacchia. E ci sono state qui delle trasmissioni che io ho ospitato nella mia trasmissione per la Cimone l'anno scorso. No, prima hanno fatto le trasmissioni loro, poi insomma abbiamo fatto insieme la Graffa, al solito loro si, insomma, poi l'ho ospitati, poi l'hanno fatte da soli, quindi io ascolta, insomma, per tutta una serie di strani eventi mi hanno infettato. No, diciamo che di quelle trasmissioni la parola che più mi ha messo proprio, che ha scafato, mi ha detto qua non se ne esce così, te lo ricordi, vedi? Che proprio ho detto no, e mo qua non si può scappare, l'auto è fascista, il fascismo dell'automobile, niente lì, regà, a me mi tocchi la corda, che no, cioè provo tutto il mio romano, metto lì per fare la svaccona, che mi stanco, che le salite, che i sette colli, che le strade di San Pietrino, le buche, niente, il fascismo dell'automobile, regà, ci sono cascata. E devo dire che ci sono cascata anche perché, non avendo un mezzo, me lo sono andato a praticamente costruire. E quindi è stata un'altra magia, diciamo. Me lo sono voluto andare a costruire riscoprendo tutta una manualità fatta invece fino allora di, diciamo, di pollici, che invece si direbbe una falange in più per scrivere tastiere, cose molto più autistiche. Invece ho scoperto la semplice, bolloni, ingrassa delle maniche, la gran, della bicicletta. Sì, è una gran, un gran divertimento. La semplice logica, la così, stringente. Guarda il vicino e di mortese, la fa lui, la fa giù. No, un po', però tutto sempre molto carino. Quindi ecco, questa so come. E quindi come te ritroviamo cascata insieme a Pipino e Piero. Cioè, vabbè. Già gli do le piste, vabbè. Sicuro, guarda, mo, no, vabbè, ma mo c'è, perché c'è la bicicletta più da mia, ma se si mette l'altra, l'altra volta proprio avevamo finito, non con proprio le cose, io e Pipino in bici al Circo Massimo, non gigi, con le cose che no, dicevamo, scherzo, in diretta. Abbiamo finito con le cose che abbiamo detto fuori onda, che erano essenzialmente due. Uno, che fra la bici e la birra, diciamo, sulla silhouette del Pipino vince la birra, sulla skyline. Sì, però secondo me, appunto, okay, uno sa che più bicicletta più si può sbirrettare, perché dice tanto. Sì, vabbè, bici, però no? Diciamo nel contrasto. Tutto si trasforma in uno sfogare nel ghiaccio. Nel contrasto. E poi un'altra cosa che c'è, sta pure praticamente sullo spottino che poi vede. Ce n'è anche uno video, ma l'avete visto, sì, quello, sì, qua, sì, a faccia? Sì, sì, sì, sì, c'è pure uno video. C'è uno proprio assurdo. No, che vieni qua, che vieni, non elenca, fare il timido. Vai. Elenca tutta una serie di cose. Aspetta che ti alzo l'asta di circa 40 centimetri. No, amore, mi abbasso ai tuoi livelli, non ti preoccupare. I miei livelli. Va. No, vieni, vieni al microfono, vieni. Dicevamo, sì, che appunto nello spottino vengono elencate un po' le cose che stiamo elencando nella trasmissione di 15 giorni fa qui a 25 O'Clock e nelle altre trasmissioni che più o meno hanno ospitato i zingari della bicicletta, che non so come definirli, e praticamente che finiva con l'altra cosa che è finita 15 giorni fa qua sotto, che con la bicicletta si acchiappa. Cioè, che si fa con la bicicletta? Si acchiappa. S'acchiappa che gli insulti dagli automobilisti? Sì, s'acchiappa. Sì, ma no. Che razza di discorsi sono? No. Ti volevo mettere in difficoltà proprio su questo argomento. L'avevamo elencato tutti, le Booker Trap, quelle che ha detto lei, quando piove, eccetera, eccetera. E poi c'era l'aspetto positivo che era questo. Pare che in bicicletta s'acchiappa. Questo Marta, è... te che ci dici? È vera sta storia? S'acchiappa in bicicletta? A me non dovete fare queste domande perché io so vedere. Perché... Allora, per esempio, mo s'acchiappa io queste cose, scusate, mo, cioè, come vi pare, se volete anche sì, s'acchiappa con la bicicletta, s'acchiappa col cane, s'acchiappa con ragazzino, s'acchiappa con la baguette, s'acchiappa con la baguette, cioè, non lo so, mo io se s'acchiappa, ancora sono nuova. A baguette gli arrivi in testa. Poi ormai c'è una certa, quindi manco certe... Però dicono, s'acchiappa, basta che, per esempio, quando una girl si approccia a una ciclofficina, non correte in otto per dargli una mano, perché casomai quella abita a San Paolo e è venuta alla ciclofficina da Asnia, come ha fatto da San Paolo alla ciclofficina da sola? Cioè, forse non c'ha bisogno. Allora dico, sì, s'acchiappa. Però bisogna saperci fare, eh? Io invece stasera uno c'ho che proprio va in mezzo ai compagni. Un link. No, perché questa è una cosa che a me mi è capitata alla ciclofficina. È che cioè, siccome so, ci sono anche compagne che aprono le ciclofficine solo per le girls, penso che uno la deve semplicemente prendere come spunto per non smettere mai di riflettere su certe cose. Ecco, mettiamola così. Ti stai ricordando la puntata che abbiamo fatto di Adesso Pedala, quando presentavamo la Ladies Night e parlavamo del genere? No, mi sono ricordata di quella, però per esempio quella me la sono ricordata, però poi io ci sono andata in una ciclofficina ed effettivamente un pochino queste cose accadono. Ma la gente è ci voglio leggere tanta buona volontà, tanta generosità di chi ti viene incontro, no? Però appunto sono dei meccanismi in cui dobbiamo imparare casomai a canalizzare la nostra generosità, semplicemente usare modi diversi, pratiche diverse, basta questo. Poi comunque dai, grandi Ladies Night. Sì, speriamo che continui andando avanti. Anzi, un saluto a Laura, che speriamo sia in ascolto, che porta avanti la serata della Ladies Night alla SNIA una volta ogni pieno di luna al mese. E credo caschi il mercoledì, più o meno. Lei prova a farlo ogni mercoledì, ultimo mercoledì del mese. Invece stasera c'ho un bel linketto a proposito di birra e bicicletta, perché quando siamo stati in Austria a trovare i nostri amici del Cycle Camp, che sono venuti questa sera in studio a dire due cosette anche loro, che sono venuti qui a Roma per la C e Mona, noi quando pedalavamo insieme a loro, noi bevevamo la birretta e invece loro si bevevano la Radler Beer. How is it in Radler Beer? Che sarebbe questa birra alcolica ma non troppo, al limone, che è proprio la birra del ciclista, perché il ciclista lì oramai è proprio una figura normale. Ok, e c'hanno sta birretta a 2 gradi, 2 gradi e mezzo al limone, che effettivamente è dissetante. E se lavora bene, pure bene con l'effetto sudore comunque, sì, che la bici comunque produce, la birra produce, non essendo troppo alcolica non rimani con quello strato di appiccicaticcio addosso che non... Magari profumi pure, Pipì? E magari affrontiamo l'argomento più scabroso, che lui diceva appunto che poi il sudore del ciclista non puzza. Allora, Aspetta, che mo mandiamo una bella cosa. Al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere, avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, mazzo di fiore di prato, ma tutto andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, breva l'andata, lungo ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che te. Incorniciate in un finestrino di lamiera. Eccolo, eccolo, arriva. Ci svegliamo all'interno di una scatola. Poi la maggior parte di noi utilizza una scatola per andare al lavoro. La maggior parte di noi lavora all'interno di una scatola. Poi si riutilizza la stessa scatola per tornare a dormire all'interno di una scatola. E ci stiamo ormai abituando a vedere il mondo e le persone incorniciate in un finestrino di lamiera. Ma c'è un modo diverso di vivere e spostarsi in città. In realtà c'è sempre stato. Leggera, pratica, economica, veloce, poetica, romantica e ovviamente ecologica. La CMON è una grande, enorme Critical Mass. La Critical Mass c'è una volta al mese, la CMON c'è una volta all'anno. E la CMON è anche una festa che dura 3 giorni e il sabato è la giornata più importante. La Critical Mass nasce parecchi anni fa dall'esigenza di farsi sentire all'interno del traffico e poi nel corso degli anni si è espansa ed allargata a livello mondiale. È un movimento che nasce dal basso. Non c'è un percorso, non c'è un leader, non ci sono bandiere. Chi sta davanti è quello che decide il percorso. E poi c'è la poesia della condivisione, il piacere di pedalare in mezzo a migliaia di ciclisti. Quando c'è una Critical Mass, in realtà noi non blocchiamo il traffico, noi siamo il traffico. Tu, Power them fire out. Matter them go Saka. Allora, la redazione è piena di ospiti, mentre qui ci improvvisiamo pure con DJ che ci selezionano la loro scaletta provenendo da Oltralpe e insomma strada piena di ospiti che io non conosco, quindi li andiamo mano a mano a presentare. Anzi, questa sera, come dicevo poc'anzi, lo studio è pieno di stranieri che sono venuti come ogni anno per la CMON a darci una mano a organizzare, a costruire, a saldare. Adesso alcuni di loro sono rimasti alla SNIA a saldare trailer, bici a due piani, bici da trasporto, cargo, bike. Vabbè, mentre invece altri sono venuti qui in radio per raccontare alle ascoltatrici e agli ascoltatori un po' quello che è la realtà viennese della Bike Kitchen e della Critical Mass. Se si vogliono presentare, sì, se si avvicina. Ok. Avvicina il microfono, magari. Che... Qui abbiamo una compagna della Bike Kitchen di Vienna. What's your name? Hello, buonasera. We don't speak Italian, so we will do this in English. I hope you all understand. My name is Gudrun. I'm from the Bike Kitchen Vienna, and we are now in Rome at the Ciclo Officina, about 15 people from Bike Kitchen Vienna and also Bike Kitchen Linz, which is also in Austria, and Bike Kitchen Ottensheim, and there will be more people. How many hours for Vienna? Most people came by train. Okay. But they took bikes, and yeah. I was cycling in Tuscany for a week and a half before and came to Rome yesterday. Okay. Yeah. Se Piero si vuole intanto fare un po'. Allora, qui abbiamo Gudrun che viene da Vienna. Sono una quindicina di persone che sono scese giù da Vienna a darci una mano a partecipare all'evento della CMON. Adesso sono alla SNIA, alla ciclo officina. Fefo gli domandava un po' così in maniera un po' provocatoria quanto tempo ci hanno messo ad arrivare. Lei giustamente ha risposto: siamo venuti tutti in treno tranne alcuni di noi che si sono fatti una passeggiata in Toscana. Giustamente piove, quindi dove vuoi che vadano. Ed ecco qui. Dimenticavo che delle persone, della quindicina di persone che sono arrivate adesso, ci sono esattamente tre ciclofficine: una di Vienna, una di Linz e un'altra di Ottensheim. E Ottensheim, right? Ottensheim. Okay. Super. Yeah. Scusate per il mio tedesco improvvisato. E niente, se c'è qualche altra domanda, se vogliamo andare avanti. Sì, no, io direi appunto di presentare com'è la situazione appunto per quanto riguarda il movimento ciclistico in quel di Vienna e dell'Austria, e se la bicicletta rispetto ad esempio alla situazione italiana è un mezzo un po' più privilegiato, ecco. which is the difference about okay. Cycling or cycling? I had the impression today it's there's a big difference in the number of cars here in Roma. There's a whole much more traffic, and it's quicker and it's more gamey. In Austria we have less traffic, and it's all rules of course, and the law, and it's less. It's less cars, but it's more rule. And if the car has its rule, I mean, I'm in the right way, and I'll drive you dead if you're in the way, because you are a lawbreaker. And that's a big difference to Roma. It's more gaming. Okay. È rimasto assolutamente impresso dal numero di macchine che ci abbiamo qui a Roma rispetto invece alla realtà che hanno loro a Vienna in Austria. E sinceramente gli piace, giustamente, perché è molto più un gioco. Cioè, correre in mezzo al traffico è veramente divertente, lo capisco e sono d'accordo con lui. E giustamente lui dice, quando le macchine sono poche e hanno delle regole ben precise, come hanno le regole ben precise anche le biciclette, è meno un gioco e devi stare molto più attento. Infatti non a caso poco fa mi raccontavano che un compagno di loro adesso sta rischiando di farsi 3 settimane di galera perché l'hanno beccato ubriaco che pedalava senza luci di notte, e tra una cosa e un'altra alla fine la cosa è andata, sono riuscito a collaglie insomma, sì. Questa roba qua sta o paga una multa salatissima o si fa il gabbio per almeno 3 settimane. Ma data questa situazione che ci hanno raccontato adesso, è necessario, come è necessario da noi, bloccare, ovvero diventare il traffico, come fa la Critical Mass? Can I answer already? I think it's not important. It's not the question about blocking traffic. It's part of being. It's being traffic. It's not about blocking the traffic. We are part of the traffic, so we need to have space in the city. Yeah. And in Vienna, this space is reserved for cars. Like they have 4 lanes, and we have nothing. So you agree with the bike lane? No, I don't agree with bike lanes. We need part of the street. Okay. There is too much cars standing around. They take too much space. They stand around for 24 hours a day, 23 hours maybe. But the rest of, yeah, and they just, yeah, you can translate. Okay. Pressa poco dice esattamente quello che pensiamo anche noi, ed è una cosa veramente confortante. Dice esattamente quello che ribadiamo anche noi, cioè noi siamo il traffico, noi non stiamo bloccando il traffico. Il punto è che le automobili in queste città iniziano a occupare veramente troppo spazio 24 ore al giorno. Il punto è che non è che si combatte per le piste ciclabili, non chiediamo le bike lane. Il punto è che noi semplicemente chiediamo lo spazio sulle strade, che è quello di cui abbiamo discusso, certo, e parlato e straparlato in radio sempre. In perché settimane. Le strade sono dei pedoni, dei ragazzini che giocano a pallone, sono pubbliche, dei ciclisti, dicevamo, dei pattinatori, sono un luogo dei pubblico pubblici, per eccellenza. Quindi di quello che va a portare il latte, alla fine di tutto, di quello che sceglie di andare al lavoro uno per macchina, alla fine di tutto la deve pagare cara, perché non è possibile. Ok. Ma quindi c'è una manifestazione assimilabile alla nostra Critical Mass a Vienna? There is critical mass happening every month, every third Friday of the month, but there is not something like the GMONA. Okay. Like there is no big critical mass once a year. And I've been to the GMONA last year, and it was a very good experience for me. Okay. And I recorded a nice song last year at the Chiamona from people from Bologna. They intend to sing at the Chiamona. They have several songs, and maybe we can play this one song now. It's called Santa Graziella. Okay. Yeah. So, vabbè. Traduco. Loro hanno una critical mass, a differenza della nostra, è il terzo venerdì di ogni mese, il nostro è l'ultimo venerdì del mese. Ma giustamente Oscar diceva, purtroppo non abbiamo ancora mai organizzato una Chiemona, non abbiamo una Chiemona bella come quella che abbiamo noi qui, alla nona edizione, mi raccomando, non mancate. E loro sono venuti per la prima volta l'anno scorso e sono rimasti assolutamente impressionati da questa cosa, tant'è vero che sono tornati il triplo, perché l'anno scorso erano semplicemente in 5. E hanno registrato alcune cose, Oscar ha registrato e fatto film e video che tra l'altro sono... si possono vedere in internet, e ha registrato tra l'altro i ragazzi della ciclofficina dell'Ampio Raggio di Bologna che cantavano un po' di canzoni, tra cui Santa Graziella, e domandava se era possibile ascoltarla adesso. Certainly. And there is one yellow Graziella, last year I met it in Roma, and the song is reminds me of the Graziella. Santa Graziella, pedala Santa Graziella, Santa Graziella, pedala Santa Graziella, Santa Graziella, pedala Santa Graziella, Santa Graziella, pedala Santa Graziella, Santa Graziella. Pedala Santa Graziella, Santa Graziella, pedala Santa Graziella, Santa Graziella, Santa, Santa, pedala Santa Graziella, Santa, Santa, Santa, Santa Graziella, Santa, pedala Santa Graziella, Santa, grandi. I ham rain, I ham rain, I ham rain, I vammy dam rain, I ham rain, I ham rain, I ham rain, I vammy dam rain, I ham rain, I ham rain, I ham rain, I vammy dam rain, I ham rain, I ham rain, I ham rain, I vammy dam rain, I ham rain, I ham rain, I ham rain, I vammy dam rain. Bene, allora di nuovo in studio con i compagni e le compagne che vengono dall'Austria per fargli parlare della loro ciclofficina. Che si chiama Bike Kitchen. Uh-huh. Gli vogliamo formulare la domanda. I don't know if you want some question or just speak about Bike Kitchen by yourself. Yeah, we can see how old how is Bike Kitchen? The Bike Kitchen is now 4 years old. Mm-hmm. We turned 4 this year. That means that we opened 4 years ago, but the process of forming the Bike Kitchen and organizing and finding a space took half a year before. And actually the finding the space was the most difficult part. We have a place in a cellar in the 15th district in Vienna, which is a very nice district. A lot of things going on with a lot of migrant people there. Mm-hmm. And so we rent this place and we pay for the rent like normal, about 400 euros a month. And we finance this by the donations of the people who use the Bike Kitchen, and it works probably similar to the ciclofficinas in Italy. The people go there and can repair their bikes on their own, and we help them and try to also help each other. Not only we as organizers help the people, but they help each other, and so we initiate a learning process and this is a very important part of this project, this self-empowerment. Okay. Quindi la Bike Kitchen esiste più o meno da 4 anni, anche se ha preso un po' di tempo per iniziare il progetto, ci è voluto un po' di tempo. E nasce a Vienna nel 15° distretto, che è una parte molto carina, molto, molto carina, molto calda, piena di immigranti. E la ciclofficina fisicamente si trova in un seminterrato, quindi ci si accede con delle scalette, anche piuttosto difficile, io ci sono stato personalmente, molto carina. E funziona un po' come le ciclofficine qui da noi, quindi c'è assolutamente la condivisione dei saperi, non danno troppe regole, le persone che vanno lì si autogestiscono e chiedono consigli ai meccanici che ci sono. A differenza delle nostre ciclofficine romane, loro pagano un affitto abbastanza economico e portano avanti i loro progetti con la sottoscrizione ed hanno anche un piccolo bar e vendono tante birre. Okay. How many people is there about around the chicken? We around the kitchen. We open once a week every Thursday in the afternoon, and I don't know, like there's at least 30-40 people every week repairing bikes, and then in the evening hanging around and drinking lots of beer. And we also have parties once a while and try to do some movie screenings, and sometimes we have bands playing or do some reading of bicycle literature. And once a month we have a special day where the Bike Kitchen is only open for women, lesbian and transgender people. This has been going on for about 2 years now, and it works very well, and by that we try to create a space, like a safe space, and a possibility for people to get into the Bike Kitchen that may not feel so comfortable during the normal days. Because we have the situation sometimes that the guys are taking away the tools from the girls and try to repair the bikes for them, and so we think it's a very important thing to do this. Okay. Provo a ricapitolare un po', ho dimenticato. Abbiamo finito di parlando un po' di quello che facciamo anche qui con la Ladies Night, che tra l'altro ci hanno dato loro proprio la miccia per partire, che è un po' da 2 anni hanno questo progetto, l'ultimo giovedì del mese. Ogni primo venerdì del mese fanno questa serata che si chiama Ladies Transgender and Lesbian Night. E insomma, dove l'apertura è soltanto a sole donne, un po' perché c'era lo stesso problema che si veniva a ricreare anche qui, che ci sono questi maschietti che tirano fuori le chiavi inglesi, sfilano le chiavi inglesi dalle ragazze che provano a riparare le biciclette, o che più che provano che riparano, che riparano le biciclette, esattamente. E oppure comunque cercare di aprire la ciclofficina il più possibile a quelle persone che sono un po' più timorose ad avvicinarsi. E loro aprono una volta al mese la ciclofficina, la Bike Kitchen. Ci sono più o meno una trentina, 40 persone che partecipano alle aperture. Non so quanti meccanici sono, organizzano iniziative una volta al mese con proiezioni di video, concerti. La sera verso le 8 in genere c'è sempre qualcuno che cucina per tutti, e ci sono moltissime persone che comunque si fermano lì fuori a bere una birra. È un momento molto molto sociale, un po' come succede in tutte le ciclofficine del mondo, credo. That's it. Ok, non so. Dalla schiena del sole. I have one question. La mia domanda è quanto è differente il nostro approccio rispetto a loro? Io che sono stato lì l'ho notata molto sta cosa, e mi ha un po' affascinato quanto loro sono molto più approccio bike punk rispetto a noi, invece che siamo un po' ciclisti secchioni con queste giacchettine e cosette. Come la vedono e se la vedono questa cosa qui in Italia? You understand? No I really feel like biculture. How different is about Italy and Austria the approach? I feel like it's much more like into the bike punk, much more in Vienna? Fun in Vienna, yeah. And not here in Italy. I heard of bike kitchens where each people gets its own space, its little tiny space, its own work tools, and they have strict rules you have to do it in 1 hour or so. And in Vienna bike kitchen, it was said to us that at the last cyclocamp, we have never seen a bike kitchen such chaotic like this. So it's working with chaos. But Gudrun didn't say it, we are a really little space. Workshop is really, really little compared to the Ciclo Officina. It's atomic bike kitchen. But that melts people together. They are forced to talk with each other because there is no space. For instance, a question, could I move here from this one square meter to the other to repair my bike? And that forces people together. And my impression is the stairs down and all this situation is perfect for producing more powers that we believe to have. So a lot of things are going out of the bike kitchen. There are bars founded and little commercial workshops, and a lot of mind is changed in the people because they are not used to being social beings anymore because all of this consuming. You are forced to consume this. If you need a bike, you have to consume it. And there you can learn, no, I don't have to buy. I can build it by myself. And that's the self-empowerment field on your own body. And that goes further. If you use the streets, that's self-empowerment too because you're not following the rules. You are not obedient to the rules, and that's really most impressive for me. Ok, ha detto che è molto felice di stare qui, è rimasto impressionato dal Colosseo, no scherzo. E ovviamente il loro approccio che hanno è molto politico, quello che proviamo a fare esattamente anche noi qui. Hanno questo ingresso con le scalette che si scende in questo posto sotterraneo dove più che riparare le biciclette, che è comunque un posto molto caotico e piccolo, l'ha provato a confrontare un po' a quello che è la nostra ciclofficina, che ai loro occhi sembra molto più grande, anche se in realtà è piccola comunque. E in realtà quello che si condivide all'interno di una ciclofficina sono i concetti basilari dell'anticapitalismo, del combattere l'usa e getta, del riutilizzare, riciclare, condividere i saperi, che è un po' alla base del pensiero che unisce un po' tutte le ciclofficine, le bike kitchen che ci sono in Italia e in Europa. Lui è rimasto molto impressionato da questa cosa, che in realtà l'ha ritrovata anche qui, anche se qui ai loro occhi il tutto sembra un po' più organizzato, dove gli spazi sono un po' più sì, ci sono delle postazioni ben precise dove c'è un meccanico che prova a seguirti, mentre invece lì è un po' più caotico. Lo hanno anche ritrovato nella realtà del Cyclo Camp, che è stato questo incontro che c'è stato per il primo anno l'anno scorso ad agosto, l'hanno organizzato a Linz, sempre in Austria, che è stato nient'altro che un incontro di tutte le ciclofficine europee, dove anche noi da Roma siamo andati. E effettivamente l'approccio di noi italiani era molto più accademico, ok? Eravamo lì concentrati a fare realmente delle biciclette, mentre invece loro era molto più, tra virgolette, un cazzeggio. Sì, costruire bici particolari, cargo bike. Ecco, magari la prossima cosa di cui parlerei con Oscar, che mi aveva detto prima. Vogliamo andare a uno approfondire. Sì, intanto andiamo. Dai, una traccetta, sì. Abbiamo di nuovo Oscar ai microfoni, che è tra l'altro colui che ha curato la scaletta, almeno in questa parte della serata, e quindi gli volevamo chiedere appunto questa traccia qui, che cosa, che significato aveva. Yeah, the song is called Autobahn. It's by a German band, and it's like it describes the feeling when you ride on the highway. It's, they're just repeating highway, I'm riding on the highway. And in Vienna we never rode on the highway so far because police always blocks the critical mass before going on the highway. At Cremona we will go to the highway, I guess. Sì, questa è una cosa che ci ha domandato la prima sera che sono arrivati qui, ma anche quest'anno torniamo sulla tangenziale. Diceva che la canzone che abbiamo appena ascoltato, The Kraftwerk, che si chiama Autobahn, e parla del feeling che c'hai quando sei su questa autostrada che guidi la tua macchina. E lui si lamentava un po' nostalgico del fatto che loro non vanno mai sull'autostrada o la tangenziale o che sia in bicicletta, perché è vietato, mentre invece è totalmente fomentato dal fatto che lo rifaremo anche quest'anno alla Cremona. E hanno fatto un buco sotto la tangenziale, cioè adesso passano le macchine, eh sì. Hanno fatto un buco? Sì, che significa? Sì. Ma la pioggia? No, i soliti con le trivelle, queste cose qui. Cioè, non volevo deluderlo, però la ciclofficina stanotte andrà lì con le saldatrici a fare un ponte. I just want to ask you some things about the cargo bar. Ah no, you want to say some things more about fun. I also wanted to respond to your question about the fun. I mean, the fun is a big part for us in Vienna, I think. Not just drinking beer, but doing like riding through the city together in the night, drunk sometimes, but also playing games and doing bike joustings and building a ramp to jump into the water and things like that. I think these things are not less political than like participating in a demonstration, because this. Giustamente mi diceva sì, c'è la parte simpatica, ma in realtà non beviamo soltanto birre, organizziamo anche eventi ludici tra virgolette, dove facciamo il bike jousting, che è una sorta di giostra medievale con le biciclette a due piani, con queste lance come facevano i cavalieri di una volta. Costruiscono trampolini per buttarsi dentro al fiume, costruiscono biciclette con le molle dove si fa a gara. Più delle volte si è ubriachi, ma queste sì, sono iniziative divertenti, ma non sono assolutamente iniziative che non hanno significato politico. C'è un grosso significato politico dietro, perché I talked to people from the States, and most of these games or this lifestyle comes from the States, and what we do is inspired by people that did these things like maybe 10 years ago, but for them it was always a political statement, because in the US everything that has to do with fun is also connected with money, yeah? So they produce their own entertainment by themselves, and it's DIY, non-commercial. And cosa forget. Diceva giustamente che l'ispirazione di questi giochi viene dall'America. All'incirca 10 anni in America ci sono collettivi come Black Rebel o altri collettivi che organizzano questi giochi, e uno dei significati politici è: gioco è uguale soldi, intrattenimento è uguale soldi. In realtà invece queste realtà cercano di organizzare eventi ludici, eventi divertenti, giochi gratuiti, dove c'è la filosofia del do it, do yourself, lo fai da te e ti diverti in questo modo. Per chi volesse approfondire la cosa, su YouTube potete cercare i video di By Kill Black Label, vi rendete conto di quello di cui stiamo parlando. So in this sense it's a political statement to produce your fun yourself and not just consume something and pay for it. And on the other hand, it's very important for like a collective to do these things because people get together this way and it strengthens the collective and it makes you strong for real political action, I think. So quindi da un lato c'è questa cosa di prodursi il divertimento e gli eventi da soli, assolutamente in maniera gratuita. Mentre invece dall'altro lato c'è anche questa cosa di far conoscere e far giocare e rafforzare il rapporto tra vari collettivi politici, un po' come è successo al Cyclo Camp con le ciclofficine di tutta Europa. Magari una sera stai lì che fai bike justing e ti bevi una birra e approfondisci un po' meglio le tue conoscenze. So it's not just about fun. We also do like participate in actions against right wing parties in Vienna. We participated in against deportations, and the bike can be a useful tool for that. Yeah, you all know the situation when you're in a demonstration and the police is around you, you're surrounded by the police, and at a certain point they just stop you and you're like, you cannot move further. With the bike you can be really quick, you can do lots of small actions, you can block cars, like there is this one ball in Vienna happening every year, which is organized by right-wing, which is organized by organizations close to the right-wing parties, and right-wing politicians from all over Europe come there. And with the bike you can block the cars, like the people that want to go to this ball. And last year we made it possible that people didn't go to the ball because they didn't have, they didn't want to go there anymore. They were sitting in their car for 2 hours. And even we Quindi non è assolutamente soltanto divertimento, ma è anche una maniera per partecipare a manifestazioni politiche. Una tra tutte, che facevo un esempio, come è successo quest'anno, c'è questo evento che organizzano lì a Vienna della destra fascista europea, che si riunisce lì con tutte queste realtà che si radunano lì. Loro vanno lì con le biciclette a infastidire, a dar fastidio fondamentalmente, e una maniera molto intelligente che hanno trovato è stata proprio quella di bloccare le automobili che stavano arrivando a Vienna per questa manifestazione fascista, e in questo modo, bloccando le automobili, gli automobilisti fascisti che erano all'interno delle automobili, dopo 2-3 ore che erano in fila, alcuni di loro hanno deciso di tornare indietro. Credo che sia una cosa veramente geniale. I don't know what else to say. Una pratica d'azione diretta, insomma, la definiremmo. We say in Italia, we already said in Radio Onda Rossa, the car is fascist. So abbiamo già detto varie volte, come ci ha ricordato anche Marta, che molti di noi pensano che l'automobile è fascista. If you want to kill someone, take a car. C'è qui Onzi, una bellissima presenza sempre da Vienna, che ha detto giustamente: se vuoi ammazzare qualcuno, basta che prendi un'automobile. Sì, infatti. È vero, io sono, ecco, sono la prova. Se ci so cascata io, riga, vuol dire parecchio. No, poi soprattutto rispetto a, diciamo, alla capacità, ho paura di usare la parola sovvertitrice, insomma, di sovvertire le cose che c'ha la bicicletta, quindi comunque di essere un mezzo che mette in discussione, no, come ha detto lui, che mette in discussione comunque, al di là delle chiacchiere, poi del modo così divertente e ironico, comunque di cambiare le regole che poi fanno parte di quello che ci diciamo tutti i giorni, in cui casomai la bicicletta non siamo non siamo abituati a metterla, no? Quindi io parlo da una che lo scopre da un anno, no? Quindi voi siete quelli che ci state in mezzo da sempre, quindi vi siete un po' persi, che sì, è vero, ormai a Roma le biciclette ci sono, però non sono mai abbastanza, diciamocelo. Allora, rispetto a questa cosa, effettivamente a me la ciclofficina come lavoro manuale, quindi di risvegliare delle cose di te, secondo me ti sveglia da una, da un, appunto, da una maniera molto automatica che hai di fare determinate cose, di darti dei ritmi, delle regole, delle scadenze nella tua giornata, dal lunedì al venerdì è così, poi sabato e domenica mi riposo, che voglio dire, lo dico io per prima, che ho avuto il lavoro fisso. Sai, sta cosa noi ce la dimentichiamo, Marta, voi ve la dimenticate, assai, perché casomai ci state, siete ormai biciclettati arrotati, no? La filosofia del do yourself. Però è qualcosa che, esatto, cioè, c'è da tanti tanti anni, esatto, è fondamentale. Fai da te. Sì, appunto, che casomai uno adesso, io appunto da nuova già dico, vabbè, ma non si può dire che la bicicletta va bene perché la benzina costa tanto. La bicicletta va bene a prescindere. Quando costava poco le macchine puzzavano uguale, riga. No? Stavi imbottigliato nel traffico. No, esatto, allora è vero che bisogna dirlo, perché è quello che ti tocca la coscienza di tutti subito, il prezzo della benzina lo ricordi tutti. E quindi fa, però bisogna pensare anche oltre, no? Perché sennò poi ci si scorda qual è l'obiettivo vero un po'. E dall'altra parte effettivamente ti smuove anche a livello di quotidianità, per cui oltre casomai ognuno di noi è militante, però poi ha i suoi ritmi, no? Anche in quello invece riesce a cambiare, a sovvertire, lo dico, è una parola che desti tempi. Io spero quest'anno di trovare molte meno tutine, questa è una cosa totalmente mia, molte meno tutine a ognuno vestire come vuole sulle biciclette, molti meno ciclisti della domenica e molti più compagni in sella alle biciclette, che è una cosa che sinceramente, compagni e compagne, che è una cosa che sinceramente ho sempre sperato in 9 anni di Cemona, e piano piano sto iniziando a vedere finalmente. Sì, anche perché appunto rispetto a come dicono loro hanno un posto di cui pagano l'affitto, seppur basso, no? In cui tramite l'attrazione della bicicletta creano poi delle cose culturali. Noi al contrario, casomai, ci sono centri sociali che esistono da 20 anni, in cui a un certo punto sono, si è colta l'occasione, no? Assolutamente al contrario. E allora forse noi ci viviamo un po' il paradosso, sì, no? Per cui se effettivamente tanta gente quanto frequenta i posti poi frequentasse anche la cicloficina e ci cascasse, Che? Io dico che dopo tante tante chiacchiere forse è il caso di mettere un po' di musica, ricordandovi che siete sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Onda Rossa, visto che dopo Santa Graziella questa non è né Radio Maria né tantomeno il Brico, visto il Do It Yourself. Noi ci andiamo a sentire un pezzo che ci siamo sentiti anche mercoledì scorso dai Buzzcocks, appunto, Another Music in a Different Kitchen. Loro sono Buzzcocks, targato 1978. There's so Allora, il buon Oscar qua ci propone un altro brano dal titolo The Fish Needs Car. Band dal nome Blurt. Ricordiamo come al solito il contatto telefonico è lo 06 49 17 50 per chiunque voglia intervenire, dire la propria o comunque porre domande ai ragazzi di Bike Kitchen. Mica a noi, eh. Così come vi ricordiamo il numero di cellulare per inviare i vostri SMS, che è il 342-3574-357. Allora, Fish Needs a Bike. Are you ready? Questi invece sono i Desperate Bicycles. Questa è la loro Cars. Noi la dedichiamo a tutti quelli che si cimentano così per la prima volta magari su un video di biciclette. Di materiale musicale ce n'è in abbondanza. Non è che mi dovete mettere sempre solo i Queen o Ride My Bicycle, eh? Shiny bones, no many tells me what you think you are. I hate cars, enemy cars. All still loving your metal box, you might as well be from Mars. Allora, noi così la prendiamo un po' a ridere, un po' seriamente. Facciamo gli auguri a questa radio che domani, ovvero tra 54 minuti e 35 secondi, compie ben 35 anni. Dal 1977 libera nell'etere. Dai 93.3, 93.4 e 50 e poi dagli 87.9. Ovviamente nella banda romana e laziale, ma da un po' di tempo anche in streaming su ondarossa.info. C'è il bottoncino ascolta la diretta. Da domani, così, un'isola pedonale improvvisata sotto il portone della radio, sotto le finestre di questa radio, che è la radio, ovviamente, all'estrema sinistra della banda di frequenza. Se volete venire a fare un saluto qui, a Via dei Volsci, troverete da mangiare e da bere per poco, ma anche tanta buona musica. E ovviamente il portone della radio aperta, i microfoni aperti. Così, per tutti quelli che vogliono testimoniare il proprio affetto a queste frequenze. E allora, quale pezzo migliore da dedicargli che Blessed in Radio? Ma vabbè, abbassa un po' la musica, leggo il programma. Lo faccio adesso, lo faccio dopo. Ma fallo quando le pare. Beh, intanto anch'io voglio compiere 35 anni come questa radio. Ah, io l'ho fatto l'altro lo voglio mese. Dire, anch'io faccio, io no, qualche mese fa, però anch'io, ecco. Andiamo avanti, allora il programma di domani, 35esimo compleanno di Onda Rossa a partire dalle 17, poi è chiaro se venite dopo noi siamo qua, ci sarà un tavolo imbandito con un bel aperitivo sotto la sede di Onda Rossa, appunto come diceva DJ Pipino. Però qua se venite prima vi mettiamo a lavorare. Vabbè, cioè, se collabora, raga, cioè non è che vi mettiamo a lavorare. De chi se la sente, de chi la fa? Io mi faccio i riunioni e voi preparate per uno scherzo. Dai, non mi fate scadere qua, cioè tutto. Dunque, verranno presentate queste autoproduzioni che da un po' di tempo vengono fatte molto belle, in particolare sulla Grecia, quindi secondo me sono molto interessanti, anche perché ci raccontano tante fandonie. E invece questi quaderni secondo me fa bene leggerli, perché svelano anche tanti magheggi che, voglio dire, vi fanno riflettere. Quindi ci sarà la presentazione dei quaderni di Onda Rossa, è uscito già il secondo, Non pago, cronaca alla resistenza sociale al debito greco, e Grecia dal 43 al 49, una guerra civile dimenticata, e appunto li potete, sono parte diciamo delle produzioni di Onda Rossa, li potete acquistare qui, domani è un'occasione in più. E poi ci sarà l'aperitivo musicale con Niki Puglielli, Pasta e Patate e Mitici Giovedì Django, che ci intratterranno qui, spiego. Specifica Pasta e Patate, non è che facciamo Pasta e Patate, no, è il nome del gruppo che sono. È il nome del gruppo, vabbè, Niki Puglielli, Pasta e Patate e Giovedì Django. Per quello non ho cominciato con Pasta e Patate. Giovedì sembrava che c'è la cena, gnocchi a casa invece mia, però noi l'aperitivo. Il giovedì gnocchi a casa mia, però. Oh, mamma mia, capito perché l'altra volta c'è. Cioè, Giovedì Django. Vabbè, ok. Giovedì Django allora. Questo è il programma. I compleanni, cioè voglio dire, questa radio sono 35 anni che campa senza parole, senza pubblicità. Pipino, tu che come me sei dovuto passare dal 93.3, 93.4 e 50, fermo, non fare il vago perché tu ancora prima. E quindi a sto punto altri numeri li diamo, che è il 61 80 40 01, uno a caso, così il conto corrente postale intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00 185 Roma. Io li so tutti a memoria ormai, che vuoi, che mi vuoi chiedere, il fax, perché, che vuoi, perché il telefono, io ho letto secondo te, questo è No, io dico sui 93.3, 93.450, gli 87.9, veramente ancora qualche volta mi sbaglio. No, e soprattutto io devo dire, sono andata al compleanno di Aurel Marco un po' di tempo fa e ho visto questa locandina, cioè questi A3 che facevamo fotocopiati, che erano le nostre locandine, che diceva, no, te lo devo dire, Republic Dreadnought Hi-Fi, te lo ricordi? 93, 93, 450, Radio Andalusia, yeah. Cioè un'emozione. Comunque, invece, dopo 35 anni siamo ancora qui, ci saranno tante cose di cui parlare, ci sarà la mostra di Iskra sul Notav, ci saranno un sacco di cose, quindi venite a farci compagnia, a salutarci, a fare gli auguri alla radio. Sì. Musica, maestro. Dai. Come un attimo, ce l'ho ancora a parlare, vedi? Adesso bisogna tirare fuori tutto l'estro di cui siamo capaci, perché invece il Pipino qua ci sembra che sta perdendo i colpi, oltre che, appunto, come dicevamo in precedenza, dimostrare che nel contrasto fra la birra e la bicicletta vince la birra nella sua fattispecie. Vai! Beh, una delle mie voci preferite, lui è Mike Ness. La voce profonda dell'America del Sud, ovvero il cantante dei Social Distortion. Quest'album ovviamente è tutto di cover. È la sua versione di Cheating at Solitaire. Dirty rainbow. ricordando gli appuntamenti per questo weekend, che sono il 25, 26 e 27 maggio. Il 25 dalle ore 18 da Piazza Vittorio, mentre il 26 ci vedremo davanti a Basilica San Paolo in quello che è chiamato Parco Schuster, alle ore 16 ovviamente per la Cemona Interplanetaria, mentre la domenica dalle 11 davanti a Piramide si va tutti insieme al mare. Mentre il prossimo brano, il buon caro Oscar me l'ha suggerito e noi lo dedichiamo a tutto il gruppo d'ascolto della SNIA. A chi salda cucina e intrallazza in ciclofficina. E allora, mentre aspettiamo il compleanno di Radio Onda Rossa, ma quanto è bello poterla respirare, alto, e lo dirò. Arrivo le buste di birra. Essi austriaci qua, da Vienna con l'amore. Ma quanto è buona. Diceva, mentre aspettiamo il compleanno della radio, fra sommersi da casse di birra che arrivano, nella trasmissione più caciarona forse dell'anno, tutto libero, niente di preordinato, ritornerei io se Piero viene da queste parti. E lo dirò alla... vai, aspetta, ce l'hai connesso. Ritornerei in Austria, a Vienna, perché avevamo un po' così interrotto un flusso di idee che stava uscendo fuori. C'era qualcuno che voleva un po' snocciolare il concetto della guerra e della benzina. So, let's talk about that. Yes, I try to make it short. I always wondered why automobile is called automobile, because it isn't auto. Auto means self, and a bicycle is a self-moving transport vehicle. So a bicycle should be called automobile, and automobiles are dependents mobiles, maybe. Yeah, they are dependent on so a lot of things. And if a society is based on automobile traffic, the whole society is dependent on oil. And we feel that, we see that every day. There is war on oil, and it's getting Russia and brutal, and each day more brutal. So if you ride a bike, it was my last. I just push you. So lui giustamente faceva uno studio etimologico della parola, diceva in realtà la bicicletta si dovrebbe chiamare automobile perché sei autonomo, sì, mentre invece l'automobile si dovrebbe chiamare dipendente. Questa era la prima cosa che mi era rimasta impressa. C'è un problema lessicale proprio, sì, che sì, lui sì, sì, pone proprio. E perché giustamente l'automobile è dipendente da questa società. La guerra, la guerra dipende ovviamente, la guerra è per la benzina. A me mi è sfuggito un po' il concetto, ecco, diciamo che ero distratto. Ok, going, but make shorter, man, otherwise... No, the last sentence, if you ride a bike, you're setting a statement, you are a statement against this, what I talked before, against this dependence society. No, quindi la volontà di guidare una bicicletta è proprio contro questo meccanismo, contro questo meccanismo, esattamente. Se tu guidi un'automobile, comunque entri nel meccanismo della guerra, entri nel meccanismo di questa società che si fonda sulla benzina, sul bisogno. Non sei assolutamente autonomo. La bicicletta ti aiuta a essere indipendente da tutto ciò. Mm-hmm. Okay. Finito? Diciamo per ora. Ok. Allora, un attimo ancora. Allora dai, eccoci qua, torniamo ancora a Vienna e... C'è Gudrun che voleva ricordarci un po' quello che è stato il Cyclocamp e quello che sarà il Cyclocamp. What do you want to say about Cyclocamp? Well, I want to explain maybe shortly the idea that we, as Bike Kitchen in Vienna, we used to have a summer party where we... had some bike fun, we built a ramp to jump into the Danube, but it was only one day. And then we said, okay, it would be fun to have something more longer, have a camp, and invite similar projects from all over Europe, like Bike Kitchens, Ciclo Officina, Petit Velo, or Velorussion, and yeah, in French, and bike kitchens from all over Europe. So we organized such a camp last year in summer, but it was raining the whole week. So it was a bit like winter. And many people came, people from Rome came, from other places in Italy, and from France, and from Spain, and from Germany, and from England, and even someone from Australia was there. And the idea was to have a DIY, do-it-yourself festival, where we all kind of organized the program together. We just provided the infrastructure, and everything else kind of was initiated by the people who were there. And okay. Okay. Niente, ci stava ricordando quella che è stata l'anno scorso una loro iniziativa che in realtà facevano una volta l'anno, che è questo Cyclo Camp, che lo organizzavano soltanto per un giorno, durava soltanto un giorno, che era questa sorta di festa della ciclofficina che si spostava un po' fuori città e organizzavano un po' di giochi, tra cui questo divertentissimo trampolino che finisce nel Danubio. Fino a quando l'anno scorso ci hanno avuto questa divertente idea di allargare il tutto a tutta Europa, di fare questo Cyclo Camp allargato a tutte le bike kitchen europee, e quindi hanno partecipato un po' a tutte le ciclofficine francesi, spagnole, c'era una persona dall'Australia, c'erano persone che venivano dai posti più disparati dell'Europa. È stato un bellissimo momento, anche se effettivamente ha piovuto per tutta la settimana e quindi si giocava nel fango, anche se non è vero perché poi è uscito il sole. Ed era esattamente un progetto per condividere l'idea del do yourself, assolutamente, del fai da te, del conoscersi e di ricreare questa rete che è già esistente da qualche anno delle ciclofficine europee. Ed è, a questo punto la domanda nasce spontanea: where will be the next cyclo camp? Dove sarà il prossimo cyclo camp quest'anno? This is a big question. Well, the idea of the cyclo camp is that it goes on every year to a different place. So we organized the first one in Austria, and then we had a lot of thoughts about the next cyclo camp. And now it looks like there will be two cyclo camps this year. But we don't know for sure. It's a bit chaotic. And I will just finish it. So there's probably one cyclo camp in Grenoble at the end of June. And for sure there will be a cyclo camp in Leipzig in Germany at the end of August. And you're all invited to come, and you can just look it up on, I think it's cyclocamp.org. Okay, but this year with the sun. Yes, hopefully. Questa è una grandissima domanda: dove sarà il prossimo Cyclo Camp? Anche perché mi ricordo l'ultimo giorno c'è stata una discussione che è durata più o meno 4 ore su dove potevano essere i probabili posti, e tutti spingevano per il sud dell'Europa, Mar Mediterraneo, ma purtroppo noi, almeno qui a Roma, noi già organizziamo grosse cose. E a quanto pare quest'anno forse ce ne saranno addirittura due di Cyclo Camp. Uno sarà a Grenoble a fine giugno, mentre invece un altro è, no, non chiedetemi come si pronuncia, Leipzig. Che in italiano si traduce come... Così, esatto. Leipzig, appunto. sarà... will be on August, right? Sarà in agosto. È un posto che si trova in Germania, una allegra cittadina tedesca. O in ogni caso le informazioni le trovate su cyclocamp.org, su cyclocamp.org, e sicuramente l'invito è a partecipare, perché è veramente un qualcosa di molto molto emozionante. Oh, e un'altra cosa, hanno loro anche un contatto come bike kitchen in internet? You can find us on bikekitchen.org. .net, sorry. You can find us on bikekitchen.net. You can write us an email to info@bikekitchen.net. Okay. And you can just come to Vienna to visit our workshop in at Goldschlagstraße number 8. Okay. And it's open every Thursday from 4 to 12 o'clock. But you can also come during the week, because there is always people hanging around. L'invito che faceva Oscar era a visitare il sito di bikekitchen.net, o comunque a scrivere una mail e troverete informazioni sempre sul sito, oppure semplicemente a venire a Vienna, ad andare a Vienna il giovedì e dalle 4 in poi a visitare il laboratorio, oppure semplicemente a passare, che sicuramente troverete qualcuno lì che starà a saldare, a smanettare con le biciclette. Volevano forse ringraziare e fare gli ultimi saluti per quanto riguarda chi li ospita in questa occasione a Roma. Thanks to Rome or something about something. Thanks to Radio Onda Rossa for having us here, and happy birthday, and come to the party tomorrow on the street. Okay. And come to the Chiemona, because it's happening for 4 days and there will be a lots of things to do. Like, you can come to Exnia during the day. We will be there and building stuff and playing games and drinking beer. And during the weekend, there will be a cinema, there will be a beauty salon and a bike whip with which you go with the bike. And there will be bike bungee for vodka, so you just participate and get drunk for free. And there is lots more program that is scheduled by the Cicloficinas from Roma, which I also want to thank. Okay. Oscar ringraziava assolutamente la radio facendo tanti tanti auguri ai suoi 35 anni di compleanno. Invita tutti quanti a festeggiare domani in strada qui in Via De Volsci. E assolutamente Oscar giustamente dice venite alla Cemona, cavolo, noi ci siamo venuti dall'Austria, non vedo perché voi non ci potete venire da Roma, giustamente c'ha ragione, e invitava anche tutti quanti a partecipare a queste bellissime giornate che si stanno svolgendo alla SNIA, dove si taglia l'erba, si inizia a cucinare per sabato, si organizzano i giochi, perché la giornata di sabato della Cemona finirà alla SNIA con una serata con DJ set e proiezione di video. Ci saranno giochi come il bike justing o il bungee, che è una cosa molto divertente. Praticamente c'è questa striscia di camere d'aria legate al corpo e tu devi cercare di arrivare il più lontano possibile e raggiungere questo bicchierino di vodka e berlo prima di toccare terra, cosa molto difficile. A quanto pare ci si riesce e ci si sbronza alla grande, quindi l'invito è a venirsi a sbronzare gratuitamente al gioco del bungee. Marta mi guarda perplessa. Marta, ce la puoi fare assolutamente, anche con la tua mountain bike terribile. Sì, è perfetto. Terribile a chi? Ecco, l'hai partita. Detto, l'ho sentito. Permalosa, maledetta. Terribile a chi? Cioè, per un finire, giorno di ciclofficina. Per finire quello che dice Oscar, un grande grazie a tutte le ciclofficine romane, a coloro che organizzano la Cemona. Assolutamente venite. No, comunque, anche solo per curiosità, vi invito a venire in questi giorni alla SNIA, perché c'è grande fermento e soprattutto vedere all'azione loro con saldatori e cutter, ovvero frullini e cose, costruire diverso. Dei mostri assoluti è uno spettacolo, ve lo dico. Ma quanto è buona l'aria da Cemona, ma quanto è bello poterla respirare. E lo dirò alla mia bella, dai vieni a Roma, pedala. Ma quanto è buona l'aria da Cemona, ma quanto è bello poterla respirare. E lo dirò alla mia bella, dai vieni a Roma, pedala. Ma quanto è buona a respirare, ma quanto è bello poterla respirare. E lo dirò alla mia bella, dai vieni a Roma, pedala. Vieni a Roma, e qui ci proviamo a provocare. You guys give a big hand again for these guys on the horns. Mr. Mike Simmons on the trumpet. Señor Scheo for Mr. Pubblico on the trombone. Allora, dicevamo, qui ci proviamo a provocare nella gran caciara e confusione di questa sera. Vediamo se la provocazione riesce invece di continuare a chattare. Non abbiamo nemmeno capito bene con chi. ...342-357-4357, dai! L'SMS di Rorra, di Radio Onda Rossa. Se proprio queste novità tecnologiche. Come gli SMS. I come from the ricordo quello che il vecchio 0649175050 illuminate di rosso, la radio più rossa che c'è. Anzi, qualcuna ci stava cercando di contattare. Lo invitiamo a... o la invitiamo a richiamare. Mi provoca palesemente Fefo, eh? Mette questi ritmi latini, le schiena del sol ci casca. Perché vivo nel barrio. Lui riesce a mischiare da paura. Di questi uno studio che scoppia di gente, eh? Io invece mi contengo e vado di ritmi miei, anche io da un live. Shake your hips and your shoulders too. No, perché all'altezza di moderni ce ne sono pochi, tra cui il gruppo Fantasma. Casa loro, ovvero ad Austin, gruppo Fantasma. Su amistad, cuando alguien me da la mano, debe esperar honestidad. Lo más curioso del caso, las mujeres también lo hacen. Igual está peor que los hombres, por eso yo no me caso. Mentira, mentira, mentira. Mentira, allora siamo 2, 4, 6, 8, 10, 11. No, se non li avete mai visti gli studi Onda Rossa, domani è un'occasione ottima. Dalle 17 in questa via per il compleanno della radio. Chi sei tu, il 2, il 3? Chi sei? Ce l'ho? Ce l'hai, vai. Sì, vai, sì, ce l'ho. Ecco. E l'orologio del Norcino, perché questo qui prima stava a Norcineria e serviva per... No, io dico sempre. Serviva per... segnalare il numero. Ah, sì, si serve il numero, eccetera. Poi trasformato attraverso il do it yourself, qua a Radio Onda Rossa, un orologio. Mancano 13 minuti al compleanno per i 35 anni di sta pischella che era di Onda Rossa. Dai, dai. Fevo, che metto dopo, dimmelo tu, eh? Io poi lo sai, prendo piede. Sì, prendi piede. Siamo fino alla mezzanotte se t'aregge. E che maregge? Ma che me provochi, eh? E dai, no? Ti tocca di sta qua domani, lo sai, sì. Me tocca, io veramente, guarda, cioè proprio... Non ne manchi una, quasi, sì, cioè, direi proprio di sì. Ma diverso, oh, io che devo fare? Mi piace. Mentira che mentiroso, parece perro rabioso. Mentira che mentiroso, parece perro rabioso. Cuando me mira. Here we go. Rock and roll. Jump, jump, jump, jump, jump. Rock and roll. Come si dice da quelle parti? Cosas heridas y valerosas, y de esas yo tengo dos, mi palabra, mis acciones, para mentir yo no tengo razones, escucha ya mi consejo. Mentira, mentiras, mentira, mentira. il gruppo Fantasma da Austin, tutti scappati, praticamente si sono rifugiati negli Stati Uniti. Ho capito, l'avete visto il Messico ultimamente com'è ridotto? C'è chi dice come la Colombia di 15 anni fa, è vero, è tristemente vero, è sempre la colpa, è sempre, sempre di un presidente, perché non ci devono essere presidenti, cioè non ci sono chiacchiere, il fatto è uno. Vediamo se ci riesco a mandarvi pure questa, eh? Sta andando, però non va. Allora, la rimetto da capo. Sono loro, lo sapete. Io per la Colombia c'ho un debole, c'ho un impeach, insomma, vabbè. Sistema Solar, coloro che hanno fatto grande la cultura, la musica meticcia colombiana, contaminandola invece con tutto ciò che è moderno. E questo è il risultato. Latonero, albañil, arrezzino ufficio, volador, vendedor Marlboro. Questa bellissima festa fatta, da 25 o'clock stasera, un mito, eh? Vale, piccolero. Direi la trasmissione dell'anno. Cante V, fabricador. A parte domani che sono gli auguri, che è di parte, quindi non conta. Escritor. Hai messo insieme un bello zoo stasera, complimenti. Mandadero, vendedor de maní. 23:48 minuti, 12 minuti al compleanno di Onda Rossa, tante e tante a fa la festa. Daria. Che ci dici? No, perché qui è arrivata una mail, diciamo a noi della radio, interessante, perché ce la manda Anna. Hai capito, vai. Tarantola rubla, ragazzi. Eh sì. Che io so che tutte anni e tutti ne sentono la mancanza. Ci ha accompagnato pure lei, una lettera quasi che fa venire la lacrimuccia, La leggo, la leggo in diretta. Tu leggi che io piango. Ciao a tutte, anche se non pare, ma ogni giorno sono con voi, ogni giorno vi penso leggendo le mail, sempre molto interessanti per scambiare su qualsivoglia tema. Ho cercato di fare il possibile per essere a Roma per la festa della radio, ma non mi è riuscito. Proprio ora che avevo deciso di ammazzare il magone che mi prendeva qualsivoglia io passavo per Roma, non riuscivo a passare invece a Via dei Volsci. 1977, qualcuno mi disse che a Roma era sorta una radio fantastica, una radio tosta, un mito. Noi, in Ostuni, avevamo Radio Spazio Aperto, creata con due giradischi messi a disposizione da alcuni di noi e un trasmettitore fatto da uno che si intendeva un po' di baracchini e roba varia. Un ripetitore che bastava solo per il centro di Ostuni, sulla costa marina a 6 km. Già non si sentiva più nulla e non dovevi abitare a un pian terreno dietro a un palazzo altissimo. Non essere a Roma e sapere che a Roma c'era Tonto Rossa ha fatto in modo che diventasse un mito per tutti noi, lontani e con i mezzi di comunicazione di allora. 1999 a Radio Onda Rossa ci sono entrate e ci sono ancora, sperando sempre di poter raccogliere il filo momentaneamente interrotto a dicembre del 2010. Vi abbraccio a tutti e a presto, spero, Anna di Tarantola Rubra. C'è stai, Annina? Stai qua stasera, stai qua domani. Succede sempre questa cosa che poi le persone si liberano. Allora, per esempio, tra le tante persone che mandano le mail, no? Perché ormai ci siamo abituati alle mail. Invece c'è quel vecchio modo per chi, oltre a vedere limitata la propria libertà, ha limitato anche i mezzi di comunicazione. Allora, noi fuori ci siamo abituati alle mail, ormai le lettere non le scriviamo più, e invece ci stanno di là, in questa radio, delle buste che sono piene di lettere scritte con la penna, con la propria grafia, di tutti e tutte coloro che invece ci chiedono, per esempio, la scarceranda, e che ci scrivono dai carceri di praticamente tutta Italia. Ormai, insomma, il rapporto con scarceranda ha fatto possibile tutto questo. E allora io stasera, Fevo, so, neanche glielo chiedo, perché so che è con me, così come tutti e tutte quelle che stanno stasera in questo studio, un saluto lo vorrei mandare a tutti e tutti coloro che ci scrivono dai carceri tutto l'anno, delle lettere che ci mantengono il contatto con la realtà, che ci fanno pensare 10 volte di più in quello che diciamo quando noi salutiamo da questi microfoni tutti e tutti coloro limitati nella propria libertà. E sicuramente adesso non mi stanno sentendo, perché è molto difficile che uno di questi posti di merda alle 23:51 qualcuno ci possa sentire, però io allora li voglio salutare per farli sentire a voi che state fuori, perché non fa mai male pensarci una volta di più, chissà, la notte porta consiglio. La questione è essere felice. Il salutone va Anna Nacci, Tarantola Rubra, lo so che vi manca. Non si balla più Taranta in questa radio. E poi c'è pure un'altra roba, stiamo preparando, ormai insomma è in fase di conclusione, non so quando riusciremo a farlo uscire così ufficialmente, un altro appuntamento importante che era quello della festa di Radio Onda Rossa per i 30 anni del suo compleanno, ormai 5 anni fa, in cui parteciparono ci siamo permessi di sfogare il nostro essere nostalgici, non dobbiamo avere paura di dirlo, no, in quel della SNIA, nello stesso spazio, sì, dove c'è il campeggio dei, io che so del 71, quel concerto, esatto, me lo so proprio goduto, esatto, a quelle canzoni che avevo sentito tante volte, vederle cantare da chi... Noi condividiamo con gli ascoltatori e ascoltatrici, esatto, sarà un'altra roba, un'altra produzione della radio da mettere nel banchetto e venite a prendere, perché insomma è esclusiva, come si dice? Eh sì, vabbè, è da paura. La questione ser feliz, questo dicono i sistema solar. Come andiamo avanti? Tu lo sai, non mi puoi dare il potere così, perché io lo prendo. Chiarire il potere, il potere è dissolto. Il mix del potere, lo sai com'è la nostra storia, il tempo è rubato durante i 5 o'clock, è perché la giornata ce n'ha 24 le ore, esatto, e noi ce la frighiamo un'ora, ce la frighiamo una forse due ore, esatto, e l'ora rubata, quindi è uno spazio libero e va come viene. Pure un ringraziamento io lo volevo fare in questo così, a Elio Germano, Gianni Palomba, Valeria Brea, Emanuele Tarco, sì, Daniele Emilio, Paolo Minaccioni, Dario Benedetti, gli Hardcore, e poi pure, che non mi ricordo chi è intervenuta, di più. Di più, mo mi sono persa, non mi letto. Comunque, voglio dire, non se ne avranno. Tutti, no, non se ne avranno, chi non abbiamo, ci siamo dimenticati di citare, perché appunto sono stati con noi al Federico e a Fabrizio, Fabrizio devo dire, e poi a Scarfo, dai, che comunque a Scarfo hanno il point, insomma, il alla torre, a che dire, la maestranza tecnica della radio, che esatto, praticamente hanno reso sta radio dei sciamannati e tecnologicamente rudimentali e sì, primitivi. C'è chi si è potuto godere lo streaming, chi è venuto alla torre l'ha visto in diretta, chi invece si sa che se lo può scaricare anche dal sito della radio. Se andate sulla pagina di download potete scaricarvi tutte quelle 2 ore e mezza circa di spettacolo. Insomma, ridere fa bene, riga, ce lo scordiamo, invece fasse una bella risata con Roma che è stata un po' al centro dell'attenzione, quindi voglio dire. E poi ancora, le due cose più belle del mondo, Roma e ridere. Sì. E poi ancora un'altra cosa, però quella non me la ricordo la data, che dovrebbe essere intorno al 10 di giugno. Ci abbiamo tempo ancora. Vabbè. Mo me cogli di sorpresa. Vabbè, un'altra roba che stiamo preparando. Un'altra cosa che bisogna ricordare e che non bisogna dimenticarsi. Sì. È che lo posso dire perché è una cosa che mi preme. Sì. È che a luglio probabilmente succederà una cosa infame. Uscirà la sentenza di Cassazione per 10 persone. Sì, sì, sì, sì. Che sono state processate per Genova. E sono, diciamo, state prese come, diciamo, di tutto quello che è successo a Genova, loro 10 sono, secondo questo paese, sono, diciamo, secondo questo stato, che è diverso, e sono gli unici responsabili. Mentre Di Gennaro è diventato sottosegretario. Manganelli? Vogliamo parlarne? Vogliamo, allora, senza prestare parentesi, perché io stasera mi sto a divertire, non mi voglio mangiare il sangue, ci metto un secondo. Quindi li nominiamo perché, appunto, casomai chi ci ascolta per sbaglio, è bene che pensi che Manganelli e Di Gennaro, che adesso sente nominare come grandi rappresentanti di questo Stato, della sicurezza di tutte e tutti noi cittadini, dell'antiterrorismo, dell'antisminchius, scusami, mi è scappato. E invece sono stati premiati dopo Genova, loro c'erano, loro sono responsabili di quello che è successo. Invece le persone che pagheranno sono solo in 10. I black bloc, è stato fatto uno schifo, è stato detto, parlato, un sacco di chiacchiere. Il risultato è che queste 10 persone, che veramente potremmo essere chiunque di noi, sì, e gli hanno accollato 100 anni. Gli hanno 100 anni. Praticamente, vuol dire che c'è chi ne prenderà 15 e chi 98. Ne prenderà 5, chi 7, sì, chi 12. Però appunto io tendo a sottolineare, siccome la radio c'era, c'era Radio Gap in quel periodo, in quella fase, sì, storica, e noi stavamo lì a raccontare, a mettere in comunicazione, in connessione tutte le cose, eravamo fra quei 300.000, eravamo quei 300.000 che stavano poi a c'eravate Genova. Pure voi, dai, bene o male, io so che anche chi non c'era fisicamente l'ha sentito la cronaca, insomma c'eravamo tutti, tutti in qualche misura ha subito Genova in qualche o modo. Col cuore o con la mente o col fisico stavamo là, insomma, comunque facendo, io mi ricordo quei giorni stavo a Roma, ma bisognava uscire, bisognava stare per strada e lo facemmo, tra l'altro scendendo pure in piazza a Roma il giorno immediatamente dopo la morte di Carlo Giuliani. Quindi c'eravamo tutti, perché quello lì era il momento centrale. E adesso sono rimaste 10 persone, la sostanza è quella. Sì, allora queste 10 persone subiranno il giudizio della Cassazione, che è chiaro che tutte e tutti noi speriamo che vada al meglio, e comunque anche il meglio non è proprio carino. Detto questo, non solo queste persone, noi ci dobbiamo pensare, perché a luglio, che sembra quasi uno smacco, no? Luglio 2001, luglio 2012, sembra un po' una presa per il culo, uscirà la sentenza della Cassazione. Loro non dovranno stare soli neanche dopo, non devono essere abbandonati loro, come non devono essere abbandonati tutte e tutti coloro che stanno nelle carceri. E chi lo dice? Non si deve scordare nessuno. Se io sono contro il carcere, non mi scordo il 14 dicembre, non mi scordo il 15 ottobre, non mi scordo Genova, non me ne scordo nessuno, no? Quindi, diciamo, riflettiamoci un po' di più, perché da questa radio se ne sentirà parlare, così come io veramente spero che si senta parlare di quello che è successo al G8 di Genova 2001, un po' da tutti, un po' che, perché sarebbe anche una dimostrazione che abbiamo vinto la paura, che ci ha cambiato a tutte e a tutti. È inutile dire cazzate, io a Genova non c'ero, c'avevo un figlio di 4 mesi, questa storia l'ho raccontata all'Ottavo, stavo a Roma e temevo che avrebbero ammazzato tutti dopo aver sentito che era morto Carlo Giuliani. Io questa era la sensazione che avevo da qua, quindi anche a me mi ha cambiato nella preoccupazione per i miei compagni, nel terrore, nella paura. Le piazze non sono più state le stesse, è inutile nasconderselo, è inutile. Poi ci sono state tante evoluzioni, tanti cambiamenti, di questo casomai ci saranno poi le sedi, i posti, i momenti giusti per parlarne, però forse reagire a questo vuol dire reagire a una paura che ti mette il nemico che tu dici di combattere tutti i cazzo di giorni. Vabbè, comunque la sostanza è che Radio Onda Rossa, noi stiamo ancora qua quando sono le 23:58 minuti prime, cioè quando mancano 2 minuti ai 35 anni della radio. Allora, noi stiamo qua a parlare ancora un'altra volta dopo 35 anni di lotte, di passioni, di emozioni, di vita, insomma, contro la morte che invece ci propinano, ci vogliono propinare tutti costoro e tutte costoro in questi giorni, in questi anni, in questi attimi, in questi momenti, sempre, continuamente, a noi ci tocca sempre di resistere, di continuare avanti, invece di manifestare tutta quella che è la nostra forza, la nostra gioia, la nostra creatività, la... Sì, anche fare di tanta rabbia che abbiamo dentro, farne sorrisi, perché poi alla fine penso che quella già è il primo passo, scendere in piazza, essere sorridenti, scandire gli slogan. E mo scendiamo con le biciclette, tra l'altro. La paura non ce l'abbiamo più, e in bicicletta secondo me viene perfetto. Perché ci abbiamo 30 secondi, 30 secondi a compleanno di radio. Che ci prepari? Che ti preparo? Mo c'ho la Colombia. Mo Colombia. Ma pensa te, 35 anni che la Colombia. Colombia, Erika. Senti, allora aspetta, intanto 35 anni e qualche c'ho secondo. Ancora 20 secondi. No. Sentivi ancora il sonno in pianino, non lo so, romanizziamo la questione, no? Mandolino. Dai, e metti quella, dai, e metti la faccia dal barcone, era un motivo semplice, cari, scallava l'anima. De Roma nostra piena, la tentazione fa la bontà. Nannare, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché? No, ma hai criticato la Colombia e io ti ho messo Roma. Roma, no, sempre bene. Roma va sempre bene. La balla, la tarantella, Nannarella non vieni più. biga e la rughetta, nannarella non ci sei più. C'era la morta tu. E noi torneremo comunque a casa in bici. Se possiamo noi stasera in queste condizioni, potete anche voi, sempre e comunque. A chi la fama ormai la serenata, vecchia chitarra amica de sto cuore, er canto de sto popolo d'onore, è l'armonia de favola passata. Oggi la bevi cantano tutte canzoni a ritmo, e Nina mo la chiamano Nelly. Nannarella, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Ma perché ti sei scordata che sei romana, gli stornelli non canti più? Forte morta in carrozzella, balla la tarantella, nannarella non vieni più. E i fiori alla loggetta con la spiga e la rughetta, nannarella non ce so più. Allora io ancora un attimo e poi ti ridò i controlli, perché ecco, ti abbiamo proprio fatto un colpo di stato stasera. Roma nostra furastiera, piena di furastieri sto studio oggi, dai, sì, ci sta. Dicevo, per me la cosa che mi piace più in radio è il gran mischione, che è la cosa che, però vedi, quando la ridici la seconda volta che già l'hai detta che è, niente, non viene, viene bene. Bisogna sempre stare in diretta per radio. Grandi compagni qui che ci hanno veramente celebrato anche con la bottiglia di prosecco, sì, sono stati, sì, carinissimi, veramente grazie, riga. Grazie. No, non lo so, non lo so, però uscite fuori una bottiglia di prosecco. Che thank you, via. Friends, thank you very much. Veramente una cosa fighissima stasera, invidiosi. Dai, metti la traccia, va. È senti un po' per la traccia, senti, alza il livello, Fefo, Ah, per tutti quelli che li volessero conoscere dal vivo, stanno alla SNI almeno fino a domenica. E ve lo dico, sono veramente incredibili. Eh sì, tocca andare da un'occhiata, Da Gabriella Ferri a London Calling, che c'è bisogno, perché di presentazioni? Noi siamo internazionali. Cioè, c'è veramente bisogno di presentazioni? Però questo è Revolution Rock, non volevo proprio... No, il disco è London Calling, ragazzi. Vabbè, vabbè. Te sei salvato un corner. E ci deve star come again, Dai. Me pari corner, se direbbe a Roma. Fallo bene. Fallo bene. Noi siamo cresciuti col vinile, Pipi, questa roba non se fa il vinile regna. Questi, come dice mio figlio, questi sono CD vinile. Olè. Stasera ci ha accompagnato pure il fantasma, comunque, anche se nella nella sua dimensione più la new entry il fantasma, eh? È visto. Solo che appare, scompare, si manifesta. C'è chi ci casca con le biciclette e chi ci casca con la donna rossa, capito? Eccolo che si manifesta. Ma soprattutto quando si festeggia il fantasma appare, è un viziaccio eterno. È un fantasma mondano. E questo è Revolution Rock, anche se per un certo periodo di tempo, per un lasso d'anni, fino a un certo punto noi dicevamo che la traccia in assoluto più che andava su Radio Onda Rossa, perché stava su tutti gli automatici, quelli a cassette, quelli su computer, era proprio London Calling dei Clash. O forse anche questa Revolution Rock. Dai! Nel frattempo ci arriva a 23:54 e 20 secondi, quindi circa 10 minuti, un quarto d'ora fa. Contrariati dalla discarica di Villa Adriana, sempre contrariati contro la discarica, in corso mobilitazione. Saluti da Villa Adriana, quindi da Tivoli, Villa Adriana. Mobilitazione contro la discarica e saluti qui a Radio Onda Rossa, e noi non facciamo altro che rilanciare l'appello per chi si trova in quella zona di... andare a questa mobilitazione contro la discarica. Ma non solo chi si trova da quelle parti, visto che in bicicletta si arriva ovunque, e quindi possiamo andarci anche da Roma, perché no? E questa è ancora Onda Rossa. Servono le luci di notte, non ve dimenticate. Ma che stai a dire? Sulla Tiburtina te voglio vedere. Up in the bushes in the penthouse front, stove burning a half a bird. You make out their legs is burning. We Escovitch, green pea soup, Korean coupe in the front. With 12 rich horns ready to stunt. Roll the blunts, ladies. Vai Vivino. All'alba di un nuovo giorno, nuovo stile musicale. Ok, va così, eh. Nella storia del punk, all'hip hop, o rap che Dio si voglia. We selling seconds, Paul, head back, Sean and yo. It's stupid high, take the shoddy with you. You and Ball can make it pop. Them niggas is from the golden era. Lemonade leathers who don't give a fuck. If they die, they more high. They soldiers in the streets, they rebels. A tutti e a tutte quelle che sono state in nostra compagnia fino a mezzanotte e 11 minuti primi, in compagnia di Onda Rossa e di 87.9 FM. rocking the skull full of waves, four frames with his change and making accent. Fresh qua la carovana composta da romani austriaci da Vienna per l'esattezza, si muove in quel della SNIA. Ci vediamo su due ruote 25, 26 e 27 maggio Ciemona, ma anche al Music Festival. Qualcosa si muove a Roma, eh? E si calcola pure che sabato mattina prima della Ciemona c'è pure una bella assemblea di lavoratori a fisica, capito? Ti è interconnessioni, così cibo, va così. Per il, cibo per il corpo, per la mente, questo è movimento e questo è 25 o'clock. Pompa al basso. Allora ringraziamo Pipino, Pierino, Chiara invece ne è venuta, magari ho capito male io. All right. Yeah. Well, salutiamo il collettivo By Kitchen di Vienna, che è venuto a festeggiare il compleanno della radio, nonché a promuovere la tre giorni di bicicletta, di trotlociclismo, ciclismo urbano in promozione di, perché lo diciamo sempre, la bicicletta non è un mezzo da tenere in cantina, andateci a lavorare, andateci a fare la spesa, fate traffico di biciclette. Più siamo meglio stiamo. Dal momento che l'atmosfera è piuttosto etilica, ci prepariamo ad entrare nel pub fumoso dei Dropkick Murphys. Formazione che viene da Boston, la città più irlandese del nord dell'America. Non capendo perché tutte le copertine dei dischi che abbiamo sono scocciate, Broken Hymns, Flaggin' Molly, a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, buon compleanno Radio Onda Rossa. Back home in Brighton, but he ain't got much to say. Chill out, mezzanotte e 24, dai! Se no che senso ha dire che questa è l'ora rubata ai ritmi, al ciclo, alla riproduzione, di produzione e consumi. Rubare il tempo. Stare un passo avanti. Seguire il ritmo. Un passo avanti alle vecchie schematiche, strategie dei poteri, dei privilegi, degli assetti consolidati. Aprire le menti. Far girare e far funzionare il cervello. E far funzionare le gambe. Farle ruotare. Spostarsi attraverso il labirinto di cemento delle città. Attraverso e per mezzo di un mezzo snello e veloce. Far ruotare, far circolare le gambe e il cervello. Mezzanotte e 26, domani ci aspetta un'altra lunga giornata. Un saluto lo facciamo anche a Elettrodo che ci ha concesso il suo spazio per questa sera. Giornate dense ci aspettano. E noi quindi cominciamo e lasciamo lavorare la compagna automatica Zara. Ovviamente domani il palinsesto della mattina più o meno rimarrà lo stesso, con la replica del GR alle 7:30 della mattina. La rassegna stampa, la lettura delle prime pagine alle 8. La rassegna stampa a seguire, poi la rassegna stampa cittadina, gli aggiornamenti per quanto succede dalla città e dal resto del mondo. Alle 13 il GR dell'ora di pranzo, lo spazio comunicazione a seguire, e poi i visionari, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Poi ci sta pure la Eschina del Sol, e poi mi sa che la programmazione ordinaria più o meno finisce. perché sì, perché probabilmente il mixer non starà manco qua, ma starà giù, quindi con la schiena del sol, sì, se ci riusciamo il mixer sarà in strada, la schiena del sol sicuramente ci sarà, probabilmente ci starà pure CPT Balkan Music, il GR, sì, ci si fa, si fa un GR di strada, non credo proprio, niente, GR di strada, interviste dalla piazza direttamente. Lo facciamo fare agli ascoltatori il notiziario. Perché ci piace mischiare i ruoli. Se proprio sti ruoli debbono esistere, eh. A me mi pare che da ste parti dei ruoli non ce ne stanno tanti, eh. E poi appunto i concerti e probabilmente anche parte lo streaming direttamente da qua sotto dalla via. Compleanno di Radio Onda Rossa. Poi la Cemona, l'Independent Music Festival, l'assemblea di fisica di sabato mattina. E ce ne sfuggono un sacco, perché anche questo fine settimana è veramente denso. Ascoltate, continuate ad ascoltare la radio, che più o meno poi riusciamo a dare spazio a tutti e a tutte le iniziative. A mezzanotte e mezza, naturalmente, il saluto più importante, più caldo, lo lasciamo per tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, la latitanza, la grande sinità, gli arresti domiciliari, i famigerati CIE e gli obblighi di firma e tutte le galere. Bella. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Perché la luna comunista è... Sister, the best dreams to dream. dreams, I'll share our dreams, I'll share our dreams under a communist.